Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Giornata intensissima anche oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Intanto è il terzo giorno delle proteste dei cosiddetti forconi o coordinamento 9 dicembre. Insomma, ancora non si capisce proprio perché è così composito questo movimento, queste proteste contengono talmente tante anime che ancora non si riescono a definire un po' tutti i contorni. Fra l'altro sta montando nelle ultime ore una polemica su uno dei rappresentanti, dei leader di questo movimento che se n'è andato via così... citava il Corriere, ecco, il Corriere Online, sto guardando, ecco, a Genova il leader se ne va in Jaguar. Un giornalista che gli chiedeva come mai lei ha una macchina così costosa, lei che protesta perché appunto c'è disagio sociale, povertà eccetera, lui ha detto non è mia. E quindi qualcuno pensa ci sarà qualche strumentalizzazione dietro, comunque dopo penseremo anche le dietrologie per vedere invece in faccia quello che sta succedendo in Parlamento. Letta ha avuto, il Presidente del Consiglio, la nuova fiducia da parte della Camera, si aspetta ancora quella del Senato. È molto probabile che vi sia, ma voi avete fiducia in questo governo o pensate che si potrebbe andare il prima possibile a elezioni? Ci sono due canali per i vostri commenti e per le vostre opinioni. La pagina Facebook di Effetto Notte, che è Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure il numero per i messaggi, che è 349-238-6666. Voi lo sapete che all'inizio vi racconto però sempre i fatti della giornata. E partiamo quindi dai titoli. Governo, Letta incassa la fiducia alla Camera, come vi dicevo, litiga con i 5 Stelle e si attende intanto il voto del Senato. Forconi e Berlusconi rinvia l'incontro, Alfano riferirà domani alla Camera e sottolinea non avremo remore contro i delinquenti. La rivista americana Time elegge la persona dell'anno e Papa Francesco, il commento del Vaticano, dice è un segno positivo. Calcio, shock per la Juventus che perde a Istanbul ed è fuori dalla Champions, e stasera in campo ci sono Milan e Napoli. E partiamo quindi dalla nuova fiducia al governo Letta. Nel pomeriggio, come vi dicevo, c'è stato il voto favorevole della Camera, stasera quello del Senato. La giornata che Letta ha definito di un nuovo inizio per il suo esecutivo era partita comunque con una polemica violenta con il Movimento 5 Stelle. Sentiamo le parole di Letta e il dibattito. Un governo europeista antipopulista per dare stabilità e crescita al paese. In un'ora di discorso alle Camere il Premier Enrico Letta promette che l'operato dell'esecutivo sarà indirizzato su crescita e occupazione per traghettare l'Italia fuori dalla crisi. Sono qui oggi per chiedere il voto di fiducia per un nuovo inizio, soprattutto con la determinazione a lottare con tutto me stesso per evitare di rigettare nel caos il paese proprio nel momento in cui esso è in grado di rialzarsi. Ma è subito scontro con il Movimento 5 Stelle. Per Letta Beppe Grillo istiga all'insubordinazione delle forze dell'ordine, la cui fedeltà è indiscussa. E nella replica scoppia la bagarre in aula a Montecitorio sulle segnalazioni dei giornalisti proposte dal leader 5 Stelle. Che o i giornalisti dicono e scrivono le cose che piacciono a voi oppure vengono messe alla gogna. È inaccettabile questa cosa. Tra i punti programmatici il capitolo delle riforme, 18 mesi fatte con l'articolo 138, proprio come chiedevano i grillini, riduzione del numero dei parlamentari, abolizione delle province, fine del bicameralismo perfetto, riforma del titolo quinto sul federalismo, abbandonare l'Europa e ripiombare nel Medioevo, spiega Letta. Nel 2014 la crescita sarà stabile e arriveremo all'1%. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Urla, insulti e poi applausi, fischi e ancora urla. È in un clima di tensione che si svolge il dibattito sulla fiducia. Scontro tra Movimento 5 Stelle e PD sulla gogna ai giornalisti e ai parlamentari. Letta li difende e critica duramente 5 Stelle. Riccardo Nuti risponde così. Noi cittadini onesti vi faremo sparire. Costi quel che costi. In nome dei nostri genitori, in nome dei nostri figli, in nome di tutti coloro che avete ucciso in questi decenni. Non vi diremo vergogna. Si rivolga con rispetto all'aula e al governo. Applausi a Letta invece dai banchi del PD. Basta con le intimidazioni, tuona il segretario uscente Guglielmo Epifani. Un conto è il diritto sacrosanto della critica, in nome del quale ognuno di noi non potrà che chinare la testa. Un conto sono le offese, le intimidazioni, le criminalizzazioni. Alze toni anche Forza Italia con Brunetta, che da del traditore ad Alfano definisce pessimo e arrogante arrogante il discorso di Letta, invoca le elezioni, si scaglia contro Napolitano. La dannata moda di invocare le elezioni. Dannata, presidente Napolitano? E perché dannata? Invocare lo strumento principale del popolo per affermarne costituzionalmente la sovranità in nessun caso può essere definito dannata moda. Il nuovo centrodestra invece rinnova, come previsto, la fiducia, ma chiede al governo una svolta e un salto in avanti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E mentre Letta iniziava il discorso a Montecitorio, il neo segretario del PD Matteo Renzi saliva al Quirinale per l'incontro con Napolitano, con il quale il sindaco di Firenze ha discusso di legge elettorale. Dopo la bocciatura del Porcellum da parte della Consulta, il PD prova ad accelerare sulla legge elettorale. I capigruppo democratici oggi hanno chiesto che il suo esame, fermo da mesi al Senato, passi ora alla Camera. Ieri la riforma elettorale è stata calendarizzata anche dalla Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio, che ha aperto di fatto un conflitto di competenza con Palazzo Madama, uno scontro che ora dovrà essere risolto dai presidenti dei due rami del Parlamento, Grasso e Boldrini. I primi contatti fra i due sono già iniziati, ma nella maggioranza l'improvvisa accelerazione non piace al nuovo centrodestra di Alfano. A spingere per trasferire il confronto sulla legge elettorale a Montecitorio è soprattutto il neo segretario democratico Matteo Renzi, che ieri su questo ha incassato anche il via libera dei suoi parlamentari. Di riforme, compresa quella elettorale, Renzi ha parlato stamattina anche con il presidente della Repubblica Napolitano, che lo ha ricevuto al Quirinale mentre il premier Letta era impegnato con il voto di fiducia alla Camera. Un incontro preceduto dalla prima riunione della nuova segreteria democratica, convocata di buon'ora dal sindaco di Firenze alle 7 di mattina, anche per dare un segnale di discontinuità col passato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Quindi, insomma, come avete sentito, una giornata politica particolarmente intensa e segnata anche dalla preoccupazione crescente per il protrarsi delle proteste dei forconi o coordinamento 9 dicembre. Poi si capirà prima o poi esattamente come sono, chi sono e come vogliono essere definiti. La Procura di Torino comunque intanto indaga per devastazione e saccheggio. Ancora una volta Torino è una città sotto assedio, con cortei e presidi nei punti nevralgici della città. 32 le persone denunciate per blocchi alla circolazione e 2 gli arrestati per violenza plurima aggravata. Momenti di tensione anche a Milano, in Piazza Loreto, dove per un presidio di circa 150 persone si sono formate lunghe code di auto. A un certo punto i manifestanti sono stati attaccati da alcuni tifosi della squadra dell'Ajax, il cui pullman era rimasto bloccato. Ha evitato che tutto degenerasse l'intervento della polizia, che poi ha identificato i tifosi facinorosi. Problemi anche in diverse zone della Puglia. A Cerignola, Andria e Barletta, azioni intimidatorie contro le camere del lavoro sono state denunciate dalla CGIL, che ha parlato di azioni provocatorie anche a BL e Savona. Nella città ligure, episodio inquietante in un negozio di libri dove alcuni manifestanti sono entrati minacciando di bruciare tutto. Azioni violente contro cui prende le distanze il leader del movimento siciliano dei forconi, Mariano Ferro. Sentiamolo a Focus Economia. Sono delinquenti che stanno semplicemente inquinando la protesta, la stanno rovinando. Con quelli non c'entriamo nulla, però questo non è un alibi per il governo per dire che tutta l'erba è un fascio. Intanto Silvio Berlusconi fa marcia indietro. Dopo aver annunciato un incontro con una delegazione degli autotrasportatori nella sede di Forza Italia, ha deciso nel pomeriggio di annullare l'appuntamento per evitare strumentalizzazioni, ha spiegato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a questo proposito, a proposito della protesta, domani Alfano riferirà alla Camera. Oggi intanto è arrivato, rivolto alla politica, un nuovo allarme della Corte dei Conti. Debito e tasse frenano il Paese, questo è il giudizio nel suo discorso di insediamento del neopresidente Raffaele Squittieri. Il problema dell'economia italiana, ha detto, è un problema di crescita, ma in un'economia nella quale la spesa pubblica vale più della metà del prodotto, nessuna crescita è possibile se quella spesa pubblica non si farà più efficace ed efficiente. Parliamo del Papa, che si è conquistato la copertina del settimanale americano Time e l'elezione a persona dell'anno. Il pontefice argentino ha battuto la talpa Edward Snowden, l'uomo dello scandalo Datagate, ma ne parleremo poi più tardi con una vaticanista. Passiamo all'estero, con l'Ucraina. Dopo la notte di scontri a Kiev, oggi in Ucraina è stata in visita il capo della diplomazia europea Catherine Ashton, ha incontrato governo, opposizione, società civile per capire come affrontare questa crisi. La giornata di Kiev, iniziata con l'irruzione della polizia antisommossa nella piazza dell'Indipendenza, l'obiettivo di sgomberare tende manifestanti, si è conclusa con un nuovo invito al dialogo del presidente Yanukovych. Un invito che nello stesso tempo è un avvertimento. Sul sito internet della presidenza ucraina, l'opposizione filoeuropea viene infatti invitata a non proseguire sulla strada del confronto e degli ultimatum, accettando piuttosto un incontro con tutte le parti coinvolte per trovare un compromesso alla crisi, nata dal rifiuto del presidente Yanukovych di firmare l'accordo di associazione alla UE. L'intervento massiccio delle forze dell'ordine però dovrebbe aver ulteriormente allontanato la possibilità che l'opposizione accetti un negoziato. La prima condizione per il dialogo restano le dimissioni del governo. Intanto la polizia ha abbandonato l'assedio agli accampamenti dei dimostranti, forse in ossequio alle pressioni europee e americane su Yanukovych. Il Ministero degli Interni assicura che non verrà usata la forza. Ma senza una soluzione in vista, tutto questo ha l'aria di una tregua incerta più che di una pace. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. E siamo in chiusura con il calcio. È stata un'intensa giornata anche per il calcio, non solo per la politica, aperta dal passo falso della Juventus. Ricordate che ieri sera è stata interrotta la partita per grandine, neve e nel quasi appunto impraticabile campo del Galatasaray. Sentiamo allora la protesta del tecnico Antonio Conte. Oggi c'è la ferma volontà di far giocare la partita, perché per i sorteggi, per tante cose, però ripeto, questo non è calcio. Siccome lo spot per noi è giochiamo a calcio, fair play, calcio e cose, oggi io penso che si sia andati un po' indietro ai propositi, anche perché cerchiamo di offrire spettacolo sempre. Oggi spettacolo ne abbiamo offerto poco, se è stata solo una partita tiri la palla di là, che io la prendo di qua, tu respingi, io la prendo. Sì, è tamburello che non siamo abituati e si è visto. Mi sembrava particolarmente affranto Antonio Conte, caro Dario Ricci. Eh beh, un'eliminazione, ricordiamo, sconfitta per 1-0 la Juventus con una rete di Sneijder a 4 minuti dalla fine in questa partita. Giocata in due tempi e in due giornate, che brucia la Juventus, che adesso deve riciclarsi in Europa League. L'unica consolazione è che la finale, Roberta, sarà a Torino, quindi motivo più a casa sua, insomma. Senti, invece Milan e Napoli non ricevono fiocchi di neve, palle di grandine, sono un po' più tranquilli meteorologicamente. Ma direi stasera, dal punto di vista meteorologico sì, ma butta male decisamente per le due italiane, perché siamo intorno alla mezz'ora sia al San Paolo che a San Siro. Risultato in entrambi i casi sullo 0-0, ebbene, chiaramente per il Napoli non sarebbe sufficiente, perché deve battere con almeno 3 gol di scarto l'Arsenal, oppure sperare che il Borussia Dortmund non vinca a Marsiglia, attualmente risultato di 1-1 tra tedeschi e francesi, quindi Napoli virtualmente fuori. E butta davvero male anche per il Milan, perché siamo 0-0 appunto a San Siro, ma il Milan dal 23esimo del primo tempo è in 10 per la giusta espulsione di Montolivo per un fallo su Poulsen. Segnalare, Roberta, come già abbiamo fatto nel GR delle 19, i fatti di cronaca, cioè i tre feriti gravi tra i tifosi olandesi che, come abbiamo sentito nei servizi precedenti, hanno surriscaldato l'intera giornata milanese. 3 feriti gravi accoltellati in un tafferuglio, in un agguato da parte di tifosi rossoneri, e staremo a vedere, speriamo davvero che sia l'ultimo episodio della serata. Robe D'Amati, grazie Dario Ricci. E a questo punto, come vi dicevo, a proposito di fiducia, e vi chiedevo se voi avete fiducia in questo governo, qualcuno già sta scrivendo elezioni subito, legge elettorale entro il 31 gennaio, e poi vediamo se riesco a leggere questi messaggi, entro il 31 gennaio e subito il voto alla fine di aprile, la pazienza è finita, dice Diego, nessuna fiducia ormai, il sistema, le teste rimangono le stesse, e così pure i risultati, questo scrive Sandro. Mentre Paola, io penso che Letta sia la persona in assoluto migliore che ci poteva capitare, se serviva il baratro a portata di mano per conoscerlo ed apprezzarlo, ebbene ben venga. E lei, Elisabetta Gualmini, ha fiducia in questo governo? Buonasera. Buonasera. Dunque, io penso che sia corretto tentare appunto di mettere in piedi un percorso di riforme e soprattutto tentare di dare un'accelerata all'azione di governo, per cui adesso dopo le primarie del PD Renzi di fatto ha chiesto un nuovo inizio a questo governo, in cui il PD è sicuramente il partito di maggioranza, e quindi penso sia giusto tentare di mettere in piedi sicuramente la riforma elettorale e poi magari anche la riforma del Senato. Non so se ci si riuscirà, ma il tentativo va fatto. E Renzi mi pare due giorni fa dicesse che entro il 25 maggio vuole la riforma elettorale, no? Insomma, quindi tra le sue priorità. Ma questa accelerata nelle sue previsioni, insomma, lei segue da Renzi da tempo, poi lei è una politologa, lo ricordo, dell'Università di Bologna, presidente dell'Istituto Cattaneo. Questa accelerata le sembra concretizzabile a breve sul governo? Dunque, sulla legge elettorale ci deve essere una forte pedalata, nel senso che se dovessimo andare a votare domani con questo sistema elettorale iperproporzionale, il paese sarebbe assolutamente ingovernabile, quindi sarebbe una sciagura, per cui bisogna in tempi molto celeri, forse anche prima di maggio, trovare un accordo sulla legge elettorale. Quindi questo è il primo scoglio su cui i partiti non possono in nessun modo perdere tempo, perché altrimenti davvero la credibilità già poca che hanno scende sotto i piedi, per cui questa cosa va fatta e Renzi si gioca il tutto e per tutto proprio su questo primo atto, insomma. Infatti ha detto: se non procediamo con le riforme ci vengono a prendere questa volta. A proposito oggi della reazione dei 5 Stelle, Elisabetta Gualmini, le sembra che siano cresciuti nel loro modo di fare opposizione al governo? Come li giudica? Ma io ho sempre dato un giudizio tutto sommato piuttosto positivo sul Movimento 5 Stelle, nel senso della coerenza, cioè sono sempre stati coerenti rispetto appunto alla loro missione iniziale, che era quella di fare da pungolo al sistema, di individuare meccanismi che insomma funzionavano di meno e quindi di spingere per esempio sull'abolizione del finanziamento ai partiti o su altre questioni. Quindi secondo me hanno imparato, insomma, sia che li si apprezzi sia che non le si apprezzi, piuttosto bene a fare opposizione. Ecco, certo, sul piano della proposta fanno molta più fatica, ma il loro compito prioritario per un movimento di questo tipo è davvero probabilmente rimanere in una versione anti-establishment e da lì pungolare il governo, e questo lo stanno facendo. Poi può piacere o no, questo è un altro discorso. Per quanto riguarda invece la posizione adesso di Silvio Berlusconi, no? Una volta che non è più senatore, è uscito dal Parlamento, comunque è sempre molto attivo, vive, combatte con noi o con loro, insomma, non si capisce. A proposito, per esempio, delle proteste, dei forconi o Movimento 9 dicembre, ancora appunto, siccome dicevamo, una galassia molto composita e variegata, difficile definirla in modo sintetico e con uno slogan, con un nome. C'è un po' una polemica che è sorta nelle ultime ore di uno dei leader del movimento, che ha lasciato, mi pare fosse a Milano, Genova, il leader del movimento lì a Genova, ha lasciato la protesta in Jaguar, e qualcuno ha detto, un giornalista gli ha chiesto, ma come mai, insomma, lei ha un'auto così costosa, ha detto non è mia, e qualcuno ha avanzato l'ipotesi che dietro ci sia qualche burattinaio che muove un po' le fila, ci sia una strumentalizzazione. Pensi che, lo leggevo poco fa qua su un'agenzia, diceva uno dei rappresentanti, Danilo Calvani, che è leader del movimento dei Forconi a Torino, ha detto faremo alle questure i nomi dei veri infiltrati, che sono Letta, Alfano e Berlusconi, diciamo, detto così per carità, no? Però c'è forse il sospetto che qualcuno li voglia strumentalizzare, o in modo un po' losco o anche platealmente, secondo lei? Ma dunque, ci sono vari discorsi legati appunto a questa galassia. Ah, bene, ha detto lei molto bene, dei Forconi, appunto. Certamente è possibile, adesso ancora non ne sappiamo molto, ma insomma è possibile che ci siano degli infiltrati o comunque anche delle frange dei movimenti estremi che utilizzano e si infilano in questa testa, così come è del tutto evidente che anche Beppe Grillo ha calcato la mano, nel senso che ha capitalizzato forse un po' troppo insomma su questa espressione di disagio e di sofferenza, la famosa lettera in cui invitava le forze dell'ordine ad unirsi appunto alle proteste. Quindi da un lato può essere che ci siano delle strumentalizzazioni e forse anche dei movimenti che si infilano, dall'altro lato non sottovaluterei davvero il disagio e la distrazione che comunque alcuni di questi gruppi che partecipano alle proteste esprimono. Cioè non vi è dubbio che dopo 6-7 anni di crisi profonda del paese, lì dentro c'è anche un mondo che va ascoltato, che poi sono i piccolissimi imprenditori, dai cartoncini ai commercianti, agli ambulanti, insomma tutte quelle persone che magari sono tutelate anche dagli strumenti di assistenza e di protezione sociale, che quindi durante la crisi effettivamente soffrono molto, e quindi c'è un mondo che non va assolutamente trascurato. C'è per esempio il governatore o presidente della regione Toscana Rossi che dice, a proposito di questa manifestazione, queste manifestazioni in giro per l'Italia: non mi piace questa rabbia che blocca l'Italia, assedia le istituzioni, si autodefinisce popolo, è sterile, priva di proposte, pronta per ogni avventura. Però dice effettivamente, insomma, ci sono tante categorie che hanno sofferto e che soffrono. E a proposito della sinistra, fa dell'autocritica e dice: finora la sinistra e i sindacati non hanno fatto abbastanza per dare veramente rappresentanza ai precari, ai disoccupati, alle partite IVA ridotte alla fame, agli esodati, ai cassa integrati, al piccolo commercio, ai piccoli imprenditori, artigiani strozzati, insomma ai poveri che ormai sono milioni. Dice: è una sfida davvero fondamentale per il PD dare voce ai ceti più deboli e tutelarne gli interessi con coerenza e determinazione. Secondo lei, in base alla campagna che ha fatto finora Renzi, ora che segretario, sarà in grado di cogliere questa sfida? Mi pare una cosa enorme da fare tutta in una volta, sì, no? Però è una cosa sicuramente enorme, che tra l'altro non nasce solo adesso come problema nei confronti del PD, nel senso che questa questione settentrionale, cioè questa fatica di rappresentare in particolare un nord in cui questi appunto piccoli imprenditori, commercianti, lavoratori autonomi che magari stanno per molti mesi senza lavoro, ecco, chiedono, insomma, esprimono una domanda anche di protezione, di maggiore attenzione da parte dello Stato. E bisogna dire che il centro-sinistra non è mai stato particolarmente in grado di dare ascolto e di dare appunto rappresentanza e di dare risposte. Quindi il sindacato, sono stato d'accordo, come diceva il governatore, pure non è mai riuscito a tutelare queste categorie. Renzi, bisogna dire che da questo punto di vista forse non si è soffermato molto nella sua campagna elettorale, probabilmente adesso Renzi il tema e il problema di dare un'accelerata, come dicevamo prima, sì, sulle riforme istituzionali, che forse sembrano un po' lontane da questo mondo così concreto che sta bloccando praticamente metà paese. Quindi su questo il PD secondo me deve ancora lavorare e dovrà farlo in fretta, perché altrimenti i movimenti populisti, penso anche alla Lega e alle ultime dichiarazioni appunto di Salvini, nuovo segretario, sono state piuttosto forti, e lo stesso Beppe Grillo, va a finire che cavalcano loro le proteste del nord e si cessano appunto di tutto questo mondo. Leggo qualche messaggio ancora delle ascoltatrici e degli ascoltatori a proposito dello scenario politico, della fiducia o meno e delle elezioni possibili. Massimo dice: per andare alle elezioni ci vuole un accordo sulla legge elettorale ed è pura utopia. Floriano dice: il governo non sta facendo grandi cose, anzi, ma andare alle elezioni ora è da incoscienti, almeno la riforma elettorale. Con il Porcellum al Senato non vince nessuno, poi la Corte lo ha bocciato. Mentre Mauro dice: alle elezioni, con punti esclamativi. Anche Michele dice: elezioni immediate. Riccardo: credo che andare alle elezioni in questo momento sia folle. Abbiamo anche ancora una parte di classe dirigente valida e cosciente della situazione. Le abbiamo, Elisabetta Guelmini, questa parte? Sì. Non ho capito bene la domanda, no? Io stavo pensando, la sua ultima domanda, perché si è interrotto un attimo il telefono. Sì. No, stavo pensando che in realtà sta crescendo nel paese, secondo me, una domanda di elezioni anticipate fatta la legge elettorale. Infatti, insomma. Sì, vedo molti messaggi. E quindi anche negli ultimi sondaggi, insomma, questa tendenza si avverte. E dal punto di vista della legge elettorale hanno ragione i cittadini, nel senso che ovviamente la Corte Costituzionale ha dato una mazzata al Parlamento, ma perché i partiti non sono in grado, almeno dal governo Monti in avanti, ma anche prima, a riformare questo odioso elettorale. Quindi sta di fatto però che adesso siamo in una situazione talmente critica che io penso che un qualche cosa avverrà, cioè non è possibile pensare di tornare a votare così. E suppongo che, insomma, i partiti faranno questo sforzo e troveranno un accordo, mal che vada, che comunque va bene, sulla legge precedente, che è la cosiddetta Mattarella, su cui appunto Grillo ha aperto, Berlusconi ha aperto, e quindi anche Renzi a un certo punto dovrà prendere atto di chi ci sta e spingere verso questa soluzione. Professoressa Guelmini, come Istituto Cattaneo, di cui lei è presidente, avete fatto un'analisi sui votanti alle primarie, no? Dove ha trionfato Renzi, che identichi è venuto fuori? Allora, è venuto fuori un dato molto rilevante, innanzitutto una partecipazione che è stata molto più ampia appunto di quello che ci si attendeva, e soprattutto il dato più eclatante è lo scollamento enorme, quindi la distanza abissale tra il mondo degli iscritti al PD e invece un cerchio più largo di simpatizzanti e di elettori che si è riversato ai gazebo per votare appunto per Renzi. Quindi è diventato una specie di partito degli iscritti, è diventato un partito degli elettori. Esattamente. Questo vuol dire però che gli iscritti, e quindi diciamo l'organizzazione tradizionale del partito in circoli eccetera, non ne rappresenta più quella domanda di cambiamento che invece viene dagli elettori. Questo lo si vede tra l'altro soprattutto nelle regioni rosse, che è ancora più importanti, perché quindi Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, perché sono le regioni in cui il partito, diciamo, e anche la tradizione post comunista era più radicata e più consolidata. Ecco, lì Renzi ha stravinto, quindi questo messaggio è un fatto di molto rilevante. Davvero è stata praticamente un terremoto. Professoressa Guelmini, un'ultima domanda. Il ministro dell'Interno Alfano, nonché vicepresidente del Consiglio, ha detto: c'è tantissimo centrodestra nelle parole del presidente del Consiglio oggi alla Camera sul fisco, imprese, sulle semplificazioni e anche sul rapporto maschio da instaurare con l'Europa. Secondo lei ha detto rapporto maschio perché l'Europa è femmina? Questa è una bellissima domanda. È certamente femmina. Abbiamo Angela Merkel che ha stravinto per la terza volta le elezioni e che quindi è la regina assoluta, devo dire, appunto probabilmente anche delle intere istituzioni europee. Quindi no, obiettivamente una bella osservazione. Ho notato anch'io come Letta abbia insomma diciamo irrobustito la sua voce e abbia alzato la voce nei confronti dell'Europa. Si sta formando tra l'altro anche una sorta di alleanza tra i paesi dell'Europa meridionale, quindi Italia, Spagna, per poter forse chiedere un allentamento di questa benedetta austerity appunto ai vari esponenti delle istituzioni europee. Non so se ci si riuscirà, ecco. Questo non lo so, però insomma però Alfano ha ragione, sono temi comunque anche vicini appunto al centrodestra, che Letta oggi anche per ovvi motivi, essendo in un governo di intese larghe o strette che siano, ha citato. Grazie professoressa Guelmini. Grazie, buona continuazione. Allora, vi aggiorno su quanto sta accadendo per la fiducia al Senato. Dopo la conclusione delle dichiarazioni di voto, al via nell'Aula del Senato la prima chiama sulla fiducia al governo. Sapete che alla Camera l'ho già ottenuta, il governo Letta, adesso sta toccando appunto al Senato. Continuano ad arrivare i vostri messaggi. C'è un ascoltatore che dice: ma che fiducia, ha avuto non ha avuto nessun successo, nulla, hanno tassato i soliti. Scrivete dei messaggi, mi raccomando, in modo chiaro, se no non riesco a interpretarli mentre guardo con gli occhi qua e là. A questo punto direi di introdurre il prossimo ospite, che è niente po' di meno che l'economista del neo segretario del PD Filippo Taddei. Buonasera. Buonasera. Responsabile appunto economico del PD, nonché docente di economia alla John Hopkins University di Bologna e capolista Bologna per Pippo Civati, è stato nelle ultime primarie. Quindi lei in quota civatiana, diciamo, nella segreteria di Renzi. Beh, penso che il meccanismo delle quote sia valso soprattutto sui contenuti. Un attimo, Taddei, mi scusi, lei è tifoso per caso? Di calcio, dice? Di calcio, sì. Sì. A parte di Renzi, ma di calcio? Di Renzi le confesso neanche particolarmente, ma tipo Bologna, poi capisci. Ah, Bologna, no. Il segretario ti fa Fiorentina per noi. Cioè, certo, quindi stia attento a dirlo. Però ci sono Milan e Napoli. In questo momento sentiamo un attimo un aggiornamento da Dario Ricci. A che punto sono, Dario, in Champions? Eccoci, Roberta. Finiti i primi tempi, entrambi, sia rossoneri che partenopei, sullo 0-0. Il risultato che eliminerebbe il Napoli e qualificherebbe il Milan, che pure è in 10 dal 23esimo contro l'Ajax per l'espulsione di Montolivo. Da segnalare, oltre 3 feriti gravi tra i tifosi olandesi di Milano, di cui abbiamo già detto, anche 2 feriti tra i tifosi inglesi dell'Arsenal al Napoli, vittime di un'aggressione poco prima della gara. Davvero, davvero una brutta serata, e non solo sui campi per i risultati che stanno arrivando, Roberto. Grazie, Dario Ricci. Eccoci, Taddei, mi scusi. Quindi dicevamo in quota civatiana, però Renzi, la scelta, a parte per la sua grande competenza, lei tra l'altro è giovanissimo anche lei, 37 anni, no? Già, sì, insomma, ha bruciato le tappe. Sì, però la prego, non mi dica giovanissima a 37 anni, è proprio un'anomalia italiana. Sì, è vero, però è vero che si sposta anche sempre più in là l'età dei giovani, no? Prima si diceva i giovani fino a 18, i giovani fino a 25, i giovani fino a 30, adesso 35, qualcuno dice anche a 40, i giovani quando ci sono, non so, dei corsi, dei concorsi, delle cose. Si sposta man mano l'asticella. Sai che questa secondo me è curioso, con l'allungamento della vita in Italia noi pensiamo che sia la gioventù che si è estesa, che è diventata più lunga, in realtà è la vecchiaia che è diventata più lunga. ci ha dato una brutta notizia. Comunque Taddei, invece andiamo sulle buone notizie. Allora, si diceva prima anche che la professoressa Gualmini, Renzi ha come priorità varie questioni, tra cui la riforma elettorale, ha detto giorni fa che entro il 25 maggio bisogna arrivare a una riforma della legge. Invece sulle questioni più economiche, è vero che è stato un suo auspicio, Taddei, di tornare all'IMU, dopo tutto questo pasticcio incredibile, questi cambiamenti di nomi, questi tira e molla che ancora non si sa come va a finire, si torna all'IMU? Ma guardi, io veramente sono sempre sorpreso di questo modo in cui il dibattito viene condotto. Il tema non è tornare all'IMU, il tema è come abbassare le tasse sul lavoro. Faccio di tutto il discorso, il mio mandato, quello che il motivo per cui io penso che Matteo Renzi mi ha dato fiducia e mi ha scelto come responsabile economico, perché attraverso il mio lavoro con Giuseppe Civati e la mia partecipazione al dibattito congressuale ci siamo impegnati veramente per cercare di riflettere a come rimettere il lavoro al centro della società italiana, come ristabilire la centralità del mercato del lavoro. Questo è molto difficile perché il mercato del lavoro italiano è estremamente segmentato, è diviso in due fondamentalmente. Noi abbiamo introdotto la flessibilità come molti paesi europei a metà degli anni 90, ma l'abbiamo gestita peggio degli altri, e abbiamo scelto un po' alla volta e nel tempo, dall'introduzione dell'imposta sul reddito in avanti, ma nell'arco degli anni, lentamente ma costantemente, di gravare sempre di più della tassazione sul lavoro. Ora, queste sono le peculiarità italiane e queste vanno rimosse e vanno colpite. La peculiarità, l'unica osservazione che io ho fatto ieri e oggi, è che la peculiarità italiana non è mai stata l'IMU sulla prima casa. La peculiarità italiana è il livello di tassazione sul reddito da lavoro per una persona che guadagna 30.000 euro lordi, 10.000 euro lordi. La cosa è che una persona che guadagna 30.000 euro lordi in questo paese, cioè, prendiamoci conto, vuol dire 1.700 euro netti al mese, che è uno stipendio medio, insomma. A quella persona, se il suo datore di lavoro vuol dargli tanto agognato scatto di stipendio, scatto di livello, diciamo che gli voglia investire 100 euro in più su questo lavoratore, quanto di questi 100 euro finiscono nella busta paga del lavoratore? Quindi il famoso cuneo fiscale, sta dicendo. Ma mi permetta anche su questo, cerchiamo di essere un po' più precisi. Il cuneo fiscale è due parti, contributi sociali e imposte sui redditi. Qui c'è un problema proprio di tassazione dei redditi, cioè noi 100 euro li mette il sborso del datore di lavoro, poco più di 40 finiscono in busta paga del lavoratore, per un lavoratore che guadagna 1.700 euro al mese. Cioè, ci rendiamo conto che questo non è normale? E se non ci rendiamo conto, guardiamo gli altri paesi dove non è così. E quando parlo di altri paesi, parlo della Germania, della Francia, ovviamente Gran Bretagna, Stati Uniti, paesi con i quali noi amiamo confrontarci per tutto il resto, insomma. Quindi tagli delle tasse sul lavoro. Gli esodati, come intendete risolvere la questione degli esodati, Taddei? Dunque, come lei sa, il governo sta lavorando su questo. Oggi il viceministro Fassina annunciava che sono stati reperiti fondi per finanziare il sostegno dei lavoratori esodati. So che il governo è molto determinato su questo, mi aspetto che la cosa venga risolta da loro. Abbiamo avuto rassicurazione in questo senso. Direi che possiamo proseguire su quel punto, in quella direzione. Tenga comunque presente che il mio ruolo è diverso da quello del governo. Il motivo per cui c'è un responsabile economico in un partito come il Partito Democratico è perché il mio compito è cercare di far sì che il Partito Democratico si doti delle migliori proposte politiche, di politica economica nel mio caso, da portare avanti quando il Partito Democratico si candiderà a governare questo paese in un contesto diverso, cioè da solo come egemone di una coalizione e non in una coalizione di larga intesa come questa, che come sappiamo è il prodotto non certo di promesse o di volontà elettorali dei partiti, ma quanto piuttosto di uno stallo del Parlamento. Quindi lei mi fa pensare abbastanza palesemente, Filippo Taddei, che sarebbe favorevole a elezioni appena possibile. Ma guarda, guardi, questa non è la mia opinione, io mi permetterà di essere recalcitrante a darle la mia opinione, perché questo è il punto politico. No, non recalcitri, perché non no, si no, può no, dire. Invece devo esserlo perché vorrei invece che noi concentrassimo la nostra attenzione su quello che è il mio lavoro. Il mio lavoro è veramente dotare il Partito Democratico, o cercare di fare sintesi, perché il Partito Democratico abbia la migliore proposta di politica economica possibile. Che cosa poi questo, come questo si tradurrà in termini di strategia elettorale, dipenderà dalle scelte del segretario del Partito Democratico nel suo complesso. Ma lei capisce che se noi cominciamo, ognuno di noi, a esprimere le proprie opinioni, preferenze... Allora, facciamo in sintesi, Tademi. Giustamente. Il segretario ha detto il governo dura per almeno un anno, e entro il 24 maggio, ieri al discorso 25 sì. maggio, grazie, ha detto deve fare alcune cose che hanno a che fare con la riforma del titolo quinto, il cambiamento del Senato, che hanno a che fare con la legge elettorale. Questa è la linea del Partito Democratico. Benissimo, allora Filippo Taddei, siccome lei mi ha detto che il suo compito è portare avanti delle proposte economiche per il PD, me ne dice due o tre che ha intenzione di fare, di elaborare? Dunque, come l'ho detto, se vuole la stella polare è quello che annunciavo prima, cioè noi abbiamo un paese oramai di lavoratori spaventati e di proprietari, anzi di lavoratori sfiduciati e di proprietari immobiliari spaventati. Gli italiani non credono più nel proprio lavoro come facevano un tempo. Noi invece dobbiamo creare un paese di lavoratori speranzosi. Per farlo dobbiamo appunto non parlare continuamente di IMU sulla prima casa, ma parlare continuamente di IRPEF sul lavoro, di tasse sul lavoro, perché questo è il primo tema. E poi dobbiamo parlare del fatto che abbiamo creato questa flessibilità del mercato del lavoro, che è stata, ripeto, una scelta europea, non è una scelta italiana. L'abbiamo declinata peggio degli altri paesi. Una delle cose più difficili da spiegare in Europa ai nostri colleghi, amici tedeschi o francesi, è perché noi, che abbiamo un livello comparabile di lavoratori flessibili sotto i 24 anni, di lavoratori temporanei sotto i 24 anni, poi non riusciamo a stabilizzarli, poi falliamo dove loro invece succedono. E io le dico, questo ha a che fare col fatto che non abbiamo predisposto al nostro mercato del lavoro dei percorsi di predeterminati, noti e chiari di stabilizzazione lavorativa, e non abbiamo sostenuto i lavoratori italiani nel momento in cui perdevano il lavoro. Io vorrei un Partito Democratico che possa parlare con la stessa enfasi, come lei mi chiedeva prima, di rifinanziamento della cassa integrazione, di sostegno agli esodati, ma che riconosca anche il fatto che la cassa integrazione in questo paese copre all'incirca un lavoratore dipendente su tre. Ecco, io vorrei che noi ci occupassimo anche degli altri due, non a detrimento del cassa integrazione, ma in aggiunta. Benissimo. E lei capisce, se noi non facciamo questo, il Partito Democratico non c'è più, perché il Partito Democratico è il partito del lavoro. Filippo Taddei, io la ringrazio e poi ci risentiremo, se lei sarà disponibile, spero di sì, anche per parlare dei tagli ai costi della politica, che rientra sempre nella politica economica. Taddei, io la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie, buona serata. Grazie a lei, buonasera. Adesso invece parliamo appunto del Papa, che, come avete sentito, è stato nominato, eletto dalla rivista americana, dal settimanale americano Time, uomo dell'anno, persona dell'anno. Giovanna Chirri, buonasera. Buonasera. Giovanna Chirri, vaticanista dell'ANSA, che fece il famoso scoop su Benedetto XVI, che si voleva dimettere, no? Era questo, sì. Giovanna. Sì, sì. Senti, su Papa Francesco, che scoop possiamo fare al momento? È davvero il Papa della rivoluzione? A parte che il Time addirittura lo definisce il settantenne superstar. Era il Papa che quantomeno ci voleva far recuperare consensi alla Chiesa, no? Poi al di là che questa rivoluzione sia più o meno concreta, sia più così di facciata, di apparenza, di comunicazione, questo ce lo dici tu. Dunque, i consensi sicuramente li ha recuperati, ammesso che, diciamo, il suo obiettivo sia recuperare i consensi, però è chiaro che nell'ottica della comunicazione e dell'informazione internazionale un Papa come Francesco va alla grande, cioè si impone benissimo, c'è una grandissima forza comunicativa, e giustamente l'hanno nominato uomo dell'anno, perché insomma è il primo Papa latinoamericano della storia della Chiesa Cattolica, ed è uno che viene dopo un Papa che si è dimesso, insomma il primo Papa che si è dimesso in 600 anni, quindi sicuramente, diciamo, Time ha indovinato. poi non lo so, perché se il Papa non fosse il Papa, fosse un presidente, secondo me a questo punto correrebbe il rischio di Obama, che gli hanno dato il premio Nobel per la pace subito, dopodiché i suoi consensi sono calati, diciamo. Però diciamo che un Papa può, diciamo, ignorare questa cosa e quindi tutto sommato anche relativizzare questa copertina uomo dell'anno e andare per la sua strada che sarà, io credo, abbastanza riformatrice, insomma, poi ce lo dirà lui, però dai primi gesti, dalle prime cose, poi ormai sono anche alcuni mesi, non sono più tanto. Scusa, da marzo mi sembra, quindi un po' di strada l'ha fatta. Marzo, che sta sul soglio di pietra, ha già fatto varie cose che indicano un pochino la linea verso cui andare, che è sicuramente una linea di riforma, insomma. Il direttore la direttrice di Time, Nancy Gibbs, dice: in meno di un anno Papa Bergoglio ha fatto una cosa notevole, non ha cambiato solo le parole, ha cambiato la musica. Ha detto. Sì, ha cambiato la musica, sicuramente. Il papato dal palazzo, ha fatto uscire il papato dal palazzo e l'ha portato nelle strade, che effettivamente possiamo dire che si sente una maggiore vicinanza rispetto per esempio a Benedetto XVI, che era un po' distante, un po' algido, lo si vedeva, no? Lui Benedetto dava un'impressione di essere distante, sì, era meno capace, diciamo, nel contatto con le folle, aveva altre caratteristiche, diciamo, mentre invece Papa Francesco è molto più pastorale, molto più caldo anche nella relazione umana, questo lo avvantaggia. Le prime cose che ha fatto in direzione del cambiamento sono i primissimi gesti quando si è affacciato dal balcone, dalla loggia delle benedizioni, con buonasera, quando si è definito solo vescovo di Roma e quando ha chiesto che si pregasse per lui in silenzio e che il popolo lo benedicesse. Poi subito dopo ha evitato di andare a abitare nel palazzo, insomma, quello ha dato l'indizio dello stile. Poi le dichiarazioni sullo IOR, anche alcune azioni concrete. Senti, ma secondo te è effettivamente riformatore, per esempio, sulle donne o sulle relazioni omosessuali, o lancia soltanto, diciamo, delle aperture? Però più o meno. Guarda, se specialmente sulle donne e poi sui divorziati risposati, io aspetto un pochino di vedere cosa succede, nel senso che queste tematiche sono sempre state l'attenzione degli ultimi papi, anche di Papa Benedetto, che ha riflettuto molto, ha cercato delle strade, poi alla fine non è riuscito a trovare una soluzione pratica. E quindi anche per il ruolo delle donne, adesso non so Papa Francesco cosa vorrà perseguire per i divorziati risposati. Non so, se alla fine trovano una soluzione ci sarà il risultato, se no vediamo un attimo che cosa effettivamente tirerà fuori dal cilindro, se tirerà fuori qualcosa. Sui gay in realtà la sua posizione non è difforme da quella del catechismo della Chiesa, no? Che soltanto che l'ha detta, diciamo, in un modo molto più morbido, più soft rispetto agli anatemi lanciati, no, dai papi precedenti, soprattutto Benedetto XVI. Giovanna Chirri, ci stiamo lasciando, volevi dire un'ultima cosa brevissimamente, 30 secondi? No. Sì, dimmi, no. Sempre su Francesco? Sì, proprio pochi secondi, se vuoi fare un'ultima analisi, ma mi dicono che senti la sigla, si sta alzando, si sta aprendo la bottola sotto la mia sedia, quindi alla prossima Giovanna Chirri, ti ringrazio. Allora, non ti preoccupare, ciao. Ciao, buona serata.